nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. No, no, non ci sono più le mezze stagioni, sono qui ogni volta il sabato per confermarvelo prima di iniziare insieme a commentare i fatti della settimana all'800240024. Come ve lo confermo questa settimana, questo sabato, fino a poco tempo fa, cioè forse fino a qualche giorno fa, ad andare in tournée chi è sempre stato? I cantanti, naturalmente, no? Chi viene in mente subito così, un po' per scontato? I cantanti, anche, diciamo, i gruppi musicali, naturalmente, anche delle compagnie teatrali, no? Vanno in tournée e persino qualche scrittore va in tournée. Invece, adesso, chi è che va in tournée? Va in tournée praticamente una capsula si chiama Phoenix, e questa capsula è quella che dopo il successo dell'operazione salvataggio, no, dei minatori di San José in Cile, questa capsula Phoenix che per più di un giorno ha fatto la spola tra il giacimento e la superficie portando finalmente alla luce questi 33 minatori, potrebbe essere lei al centro di una tournée mondiale, quindi troverete probabilmente prossimamente allo stadio, in qualche pala eccetera eccetera, la capsula Phoenix, anche lei insomma sta partendo per la tournée. E poi possiamo anche dire che fino a qualche tempo fa i chirurghi, no, nella pancia dei pazienti a volte si dimenticava una benda, a volte una pinza, invece no, cambiano i tempi anche in questo senso, perché alcuni medici del Rhode Island Hospital negli Stati Uniti sono stati sospesi dopo che è emerso che durante un'operazione avevano dimenticato la punta di un trapano nel cranio del paziente. Forse lui sentiva un certo ronzio, non so se era ancora in funzione, comunque insomma come la coda delle lucertole. Ma adesso andiamo ai fatti della settimana, anche questi naturalmente che vi racconto per confermarvi ogni volta che non ci sono più le mezze stagioni, sono fatti della settimana. Ma voi quali sono le notizie che vi hanno colpito di più? Bisogna dire effettivamente che questa settimana, forse se non ricordo male, per la prima volta da agosto, questa settimana la cronaca nera ha completamente sopraffatto la politica. Finora era sempre scontro, Berlusconi, Fini, le cose, i veleni, il PD e qua e là. Invece questa settimana, incredibilmente davvero, c'è stato un affastellamento di notizie di cronaca nera con gli ultimi sviluppi terribili del delitto di Avetrana, della povera Sara Scazzi. Io comunque terrò sempre gli occhi un po' dappertutto, anche sulle agenzie, se dovesse arrivare qualche altra novità. Speriamo di no, ci sembra fin troppo questo. 800 24 00 24, aiutatemi anche voi a rifare un bilancio delle notizie della settimana mentre mi schiarisco la voce, scusate, e a raccontarmi insomma quali sono le vostre opinioni. Naturalmente non solo cronaca nera, non so, c'è il caso Santoro con la Rai, la partita saltata per gli ultraserbi che erano un pochino agitati, diciamo, e poi la manifestazione FIOM in corso, e speriamo vada tutto bene, che non ci siano stati degli allarmismi un po' inutili e forse anche poco opportuni. 800 24 00 24, come sempre, scusatemi per la voce anche questa settimana, mi farò aiutare in questi commenti approfonditi o generici sui fatti della settimana dall'opinionista estemporaneo che oggi è... Non mi ricordo chi è. Stavo pensando... Gianni Golfera, l'uomo con la più grande memoria al mondo? Eccomi qua! Tu perdonerai, io essendo una comune mortale ogni tanto posso anche dimenticarmi, giusto? Giusto. Gianni è anche, come possiamo dire, un fenomeno studiato dalla NASA, da molti centri di ricerca internazionali, proprio perché questa memoria che adesso, anzi, ci può essere particolarmente utile oggi, no? Sapete che ogni volta acchiappo un po' di qua, un po' di là gli opinionisti estemporanei, no? Posso venire dal mondo del giornalismo, ma dal mondo del cinema e da qualsiasi ambito, insomma, da qualsiasi tipo di formazione. Gianni Golfera ha questa memoria straordinaria e quindi potrebbe raccontarci tutti i dettagli anche della storia italiana, anche della storia mondiale, per aiutarci a capire anche il presente e anche le notizie di questa settimana, a partire persino dalle guerre puniche, vero Gianni? Anche prima, dall'uomo preistorico, da Neanderthal. Quindi siamo in una botte di ferro, come si dice, caro Gianni. Gianni, tra l'altro, ha scritto diversi libri su questo metodo omonimo, in cui insegna appunto ad avere memoria un po' a tutti, anche se non si può pretendere di arrivare ai suoi livelli. L'ultimo libro sul tema è appunto Il grande libro della memoria, tecniche e segreti per ricordare tutto ciò che ci serve per il tempo, per quanto tempo vogliamo, pubblicato da Sperling & Kupfer, tra l'altro in collaborazione con Pierangelo Garzia e Edoardo Rosati, no? Sì, esattamente. Quindi nel caso tu avessi dimenticato qualcosa, c'erano gli altri autori che ti aiutavano. Questo era un po' lo scopo di essere in tre autori, Gianni. Hanno fatto la parte scientifica anche sull'alimentazione, sulla cura del cervello, perché noi diamo per scontato che il cervello sia qualcosa che deve funzionare per forza. Per forza, sì. non sembra tanto a sentire anche i fatti di questa settimana. Ma Gianni, adesso io l'ho sfogliato, poi ho letto, sai, i tuoi libri del passato, ci siamo visti e sentiti varie volte, ma in questo caso intanto mi fa piacere che tu parli di memoria e non solo di memoria, perché anche nel mio piccolo, no, io per esempio sono una che ricorda delle cose incredibili di anni fa, dei dettagli delle cose, e poi non riesco mai a avere memoria topografica, è proprio un guaio, manca il tassello proprio a me. Quindi ci sono vari tipi di memoria, non è che uno ha memoria per tutto. Sì, naturalmente. Noi diciamo ne definiamo due per semplicità, che sono quella a breve termine che coinvolge dei processi di natura elettrochimica e quella a lungo termine che coinvolge dei processi di natura biochimica. Il mio lavoro sulla memoria consiste nell'attivare la memoria a lungo termine in maniera consapevole, così che quando vogliamo ricordare qualcosa lo possiamo fare. Senti Gianni, poi magari ritorneremo, ma insomma abbiamo capito che questo libro, se uno vuole sviluppare la propria memoria, ci trova qua un metodo insomma accompagnato passo per passo, step per step, step by step, potremmo dire un po' così, facendo gli esterofili. Però di questi fatti della settimana, tu che cosa ricordi con maggiore attenzione? Beh, di questi fatti della settimana, quello che maggiormente mi ha sconvolto, considera che io sono ritornato da poco dall'America, quindi non sapevo. Certo, perché tu adesso stai negli Stati Uniti, quindi ho detto: Gianni, ma sei sicuro? Hai preso possesso dei fatti che avvengono qui in Italia? Mi hai garantito di sì, insomma, qualche spolveratina nel fatto. Sono tornato, mi sono informato, devo dire che non mi ha stupito la politica, che bene o male purtroppo è sempre simile a se stessa in Italia. Quanto l'ondata di violenza sovraumana è assolutamente non comprensibile, in particolare il pugno in metropolitana mi ha veramente sconvolto, c'è una cosa che veramente non ha nessun tipo di logica, di fondamento, di motivazione, mi ha davvero stupito nel più negativo dei termini, unito anche purtroppo all'altro episodio che conosciamo e alla stranezza dell'episodio che riguarda purtroppo l'uccisione della ragazza da parte dello zio e ancora peggio il coinvolgimento della cugina. Della cugina. Io ho sentito un po', ieri ero curiosamente alla redazione del TG5 dove ho presentato il libro e diciamo i giornalisti presenti erano stupiti dall'anomalo comportamento della cugina fin dall'inizio, che mandava messaggi ai giornalisti, che teneva... Ha fatto tante interviste, sì, era stata anche accusata di essere sovraesposta, diciamo, in questi... nei vari talk show, nei vari programmi, diciamo, a sfondo giallistico, ecco. Insomma, sì. Era un po' presente dappertutto. In realtà, effettivamente, non aveva affatto logica, perché se pensiamo a un episodio del genere capitato a noi, non avremmo certamente voglia di andarlo a raccontare in televisione o ai giornali. E purtroppo la non logica della cosa era la sua logica, a quanto emerso adesso. La psiche umana, insomma, leggevo varie analisi, varie opinioni, vari editorialisti in questi giorni, no, su questi fatti di cronaca. Per esempio c'è Giovanni Belardelli sul Corriere di qualche giorno fa che scriveva, il titolo era "Se la violenza non è più un caso limite", e diceva che ci sono proprio dei mutamenti profondi nel nostro vivere sociale. Veramente uno può dire, ma certe cose sono successe anche in passato, succedevano, però davvero con anche a volte... l'indifferenza e la reattività senza scrupoli, senza riflessione del come succede adesso, a me sembra che in passato. E fra le varie cose che scrive Belardelli c'è anche questa, dice: esperienza di tutti noi che per esempio far notare educatamente le proprie ragioni, pregare qualcuno di rispettare la fila, far segno a una macchina di fermarsi e lasciarsi attraversare sulle strisce pedonali e così via, rischia ormai questo atteggiamento educato di diventare pericoloso. Dice l'episodio milanese, per esempio, insegna quello del povero tassista che si era fermato dopo che un cane aveva attraversato così all'improvviso la strada e lui lo aveva inevitabilmente poi messo sotto, no? E sai che in fin di vita. Però prima di cominciare a collegarci con i vari ascoltatori e ascoltatrici che stanno chiamando al numero 800 24 00 24 per commentare insieme i fatti della settimana, vi ricordo che c'è come opinionista estemporaneo l'uomo con la più grande memoria al mondo, Gianni Golfera, così dice lui, poi dopo magari verificheremo. E intanto colleghiamoci però anche con un altro pianeta. Riflessioni da Marte. Ma secondo voi sarà l'inquinamento o cosa? No, perché qui da Marte ho lustrato meglio la lente del telescopio, no? Questa settimana, quasi incredula davanti a tanto impazzimento terreno. Sembrano cose dell'altro mondo, invece no, sono proprio cose di questo mondo qua. Ma ciò che è prevalso in realtà questa settimana è stato il candido stupore di fronte agli effetti dei propri atti da parte di chi ne ha commessi di incredibili, no? Per questo quindi, proprio perché sono incredibili, lo stupore stesso di chi li ha commessi. Per esempio, no, tra i tanti fattacci di questa settimana occorsi sul suolo italico, non so se ricordate l'uomo di 75 anni accusato di stalking che a Firenze, dopo aver tormentato per anni le sue vicine, ha accoltellato la sua vicina di 64 anni, ha ferito molto gravemente la figlia e poi che cosa ha detto davanti agli inquirenti? Ma sì, effettivamente ho fatto una grossa bischerata, ma quantomeno lui l'ha riconosciuto. Poi invece parliamo del Ivan l'inconsapevole più che il terribile, no? O anche per quel che ha detto Ivan irrisibile. Cosa ha detto dopo il putiferio causato a Genova? E meno male che non ci è sfuggito il morto. L'ultraserbo, arrestato appunto per la guerriglia, no, che ha stoppato la partita tra Nazionale Azzurra e Serbia, guarda le sue foto con occhi sgranati, questa era la descrizione degli inquirenti, e per prima cosa chiede scusa all'Italia, agli italiani, e poi testuali parole dice: non immaginavo di provocare un incidente diplomatico tra Serbia e Italia, perché noi non contestavamo l'Italia, un paese bellissimo che ci piace, e non volevamo nemmeno far sospendere la partita. Siamo rimasti molto meravigliati di questo. In fondo, riconosciamoglielo, non ha mica portato un cacciabombardiere nello stadio, anche perché quello forse gli agenti addetti al controllo lo avrebbero notato. Aveva accesoi e fumogeni, giocattolini di questo tipo, insomma. Se qualcuno però gli avesse dato un'occhiata in più prima di farlo entrare al Marassi, del resto lo dice la canzone stessa. Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. La situazione mi è sfuggita di mano, ha concluso Ivan irrisibile con lo sguardo di una pecorella smarrita, sfuggita di mano, del resto come il cane accidentalmente, inevitabilmente poi investito da un tassista milanese che subito caricato di botte perché la situazione è sfuggita di mano a qualcun altro e ora in fin di vita. E che dire dell'autentico macio che a Roma ha scambiato una giovane donna romena per il pungiball del Luna Park? Sì, avete presente quello che con un pugno solo, se sei ovviamente un vero macio, fai 10.000 punti? Salvo poi dire, questo l'ha detto il vero macio, ero spaventato, mi aveva minacciato quell'energumina di donna, no? Di cavarmi gli occhi. La stessa cosa si scopre, questo uomo aveva fatto, questo giovine nerboruto, con un ragazzo che lui stesso aveva quasi arrotato sulle strisce pedonali. Perché mai si trovava lì quello sulle strisce pedonali proprio mentre passava lui col motorino? E via, un altro bel pugno da Luna Park, ma lì il malcapitato era stato almeno più resistente. E cosa dunque dichiarato ieri l'uomo dal tic al braccio? Avete presente tipo il Big Jim di una volta, i robot Transformer, i quali ogni 2x3 gli partiva il braccio? Ecco, cosa ha dichiarato dopo che è stata decretata la morte della povera romena? Attenzione, ha detto sconsolatamente: sono stato sfortunato. Lui è stato quello sfortunato. È già sfortunato poiché qualcuno è riuscito a bloccarlo dopo il pugno e a non farlo dileguare nel nulla. C'è un tifo originale che al mondo non va uguale, si chiama niente meno Fortunato, ma per fatalità è sempre dal destino contrariato. Facezzi e da un altro pianeta, noi ritorniamo coi piedi sulla Terra. 800 24 00 24, c'è Marco dalla provincia di Verona. Marco! Pronto, buongiorno. Buongiorno a te, Marco. Io volevo tornare sulla penultima tua notizia, anche se l'ultima è molto più grave. Il discorso del stadio, violenza stadio e così. Marassi a Genova o in generale il tuo discorso? Un po' tutto, però è giusto, prendiamo in considerazione l'ultima. Sì. Allora, io vado allo stadio, mi fanno togliere i calzini per vedere se ho l'accendino. Ma tu li hai lavati i calzini, non per essere offensiva, Marco, magari per quello ti fanno... No, ma nel senso. Allora, quello lì qualcuno l'ha pur lasciato andare dentro. Sì. Punto. Era, non era neanche l'omino piccino che dici non lo noti, passa tutto così, no, inosservato. Un pezzo allora, di carne, sì. Io ho pochi capelli, un po' più di lui, però, però uno un po' così può dar nell'occhio. Allora, io non voglio dire che uno che è rasato sia... Può dar nell'occhio anche il fumogeno, se proprio sì, scherzi. No, ma uno ce l'ha nel giubbotto, Punto primo. Punto secondo, già nel pomeriggio si diceva che avevano fatto il casino, avevano fatto andare allo stadio perché così non rompono la città, non rompono dentro lo stadio e basta. Punto secondo. Però una volta che io che ci vado una volta ogni tanto mi percorgo fino a fondo, credo di essere una persona corretta, normale, sti qua che c'era il sospetto vanno dentro, la polizia non fa niente, sta lì, guarda, io non dico che deve sparargli, però apre le porte dietro e con l'idrante raffredda gli animi, non lo butta giù, raffredda gli animi. Io penso, però di fondo secondo me è un altro il problema, che siano tutte manovrate dall'alto queste situazioni, mi spiego meglio, magari il povero poliziotto che prende 1300 euro al mese, se c'è una trasferta, se c'è un servizio in più, prende qualcosa di straordinario, prende dei giorni di riposo, e allora la prossima volta invece di essere 1000 delle forze dell'ordine ce ne sono 3000 e già lì sono 2000 in più che beccano qualcosa in più. Io non vorrei che alla fine di tutto quanto... qual è la questione? Un giro così, perché quando c'erano, c'è stato il G8, hanno portato loro le bombe che sti qua che andavano a manifestare con le bandiere per creare il casino. Ma chi ha portato le bombe, Marco? No, ma è nella scuola Diaz. Ah vabbè, adesso però Marco ci stiamo un po' allargando la questione e confondendo un po', ma quello che va detto effettivamente, adesso al di là Maroni dice che tutto era sotto controllo, che però non era in qualche modo prevedibile, ecco, tutto questo, però va ricordato, è stato ricordato in questi giorni, che il Football Club Stella Rossa, di cui sono tifosi questi ultra, chiamiamoli tifosi, in realtà è stato pescato proprio in questo Football Club tra gli ultra durante la guerra, vi ricordate, la terribile guerra balcanica, no? Nell'ex Jugoslavia. E sono state proprio raccolte tra questi ultra delle milizie paramilitari. Voi sapete che violenze terribili sono state commesse nella guerra dell'ex Jugoslavia. Quindi... insomma, diciamo che è ancora molti di questi lì dentro sono un po' nostalgici, no? Di quei tempi. Quindi rendersi conto che possono essere forse i tifosi più pericolosi d'Europa, diciamo che poteva essere forse un po' più plausibile. Comunque, grazie a Marco. Claudio da Firenze. Sì, buongiorno. Claudio, mi risento, come mai? Una passione sente? Per la mia voce. Sì, sì. No, volevo un attimo parlare del caso Santoro. Sì. Due minuti. Per dire, non capisco perché questo paese non possa essere normale e debba prendere tutto estremamente sul serio, no? Il giornale fa qualcosa su un dossier, Santoro si esprime alla sua maniera e diventa un caso nazionale. Cioè, a me sembra sia tutto normale in una democrazia, no? Voglio dire, mi sembra che alla fine sono punti di vista diversi. Io non lo guardo Santoro per dire, non mi piace, no? Però riconosco il diritto anche dell'altro di esprimere il proprio punto di vista, anche un po' forte delle volte, come penso il giornale abbia il diritto di fare le proprie indagini giornalisti. E voglio dire, come si fa? Sentivo ieri sera Masi in una trasmissione televisiva. Il direttore generale della RAI, sì. Esatto. Come si fa a mettere in discussione qualcuno che fa 6 milioni e mezzo d'ascolti quando si fa pagare addirittura un abbonamento alle persone? Cioè, chi paga l'abbonamento può vedere Santoro e non sono io, per quale strano motivo lo dovrebbe piacerebbe non vedere. Quindi no? Tu sei contrario a questa punizione e sanzione, no, che per il momento sembra sospesa? Questo paese diventasse più normale e prendesse esempio anche dagli Stati Uniti, dove davvero c'è, cioè, la libertà di espressione, quella deve essere, cioè anche agli eccessi, anche naturalmente non violenta, però voglio dire, con punti di vista sono estremi, perché finisco dicendo, è chiaro, ci sono persone che non hanno più soldi per arrivare alla fine del mese, avranno un punto di vista, ci sono persone che in questa situazione si arricchiscono e avranno un'altra ancora, per cui dobbiamo bene o male rappresentare tutte l'anima del paese, no? Quindi voglio dire, mi sembra che questa polemica su Santoro rafforzi Santoro stesso, il proprio stipendio, e chiaramente porti tutto fuori da una normalità che non interessa poi praticamente a nessuno, no? Cioè ci sono 5.000 canali, uno gira e non guarda più Santoro. Tu dici, insomma, sia il telecomando, poi adesso diciamo l'offerta sia anche piuttosto ampliata, quindi se uno non gradisce un certo genere di spettacolo, di programma, gira. Secondo te questa Santoro fa notizia? Tanto una trasmissione Rai ieri sera si rioccupa di Santoro, no? Diventa veramente qualcosa di mostruoso alla fine. Cioè la televisione che celebra o distrugge se stessa a seconda dei punti di vista, delle opinioni, cioè mi sembra, e non passi mai il messaggio, che l'altro, il diritto di non pensarla come noi, non so se mi spiego, cioè che questo discutere sempre di se stessi poi alla fine produca semplicemente del gran nervosismo e basta. Io credo sia un paese che abbia bisogno di molta serenità, di politici che lo sanno guidare, di destra o di sinistra, di gente sana di Claudio mente, senti, no? Sto per farti una domanda indiscreta, però tu puoi sorvolare o puoi dirmi, sì, tu da che parte voti? Ma io devo dire che voto centrodestra, ma semplicemente perché questa è una convinzione mia, ma ho molto rispetto anche di, mi racconta, io lavoro in un settore dove mi raccontano anche storie di gente che non ce la fa più arrivare alla fine del mese, no? E chiaramente questo diventa un problema reale, ed è la gente che spesso ascolta Santoro, non so se mi spiego, la faziosità di Santoro, però Santoro diventa paradossalmente, da un punto di vista anche archetipo, l'unico elemento, l'unico giornalista è realmente... li rappresenta, no? E quello dà la voce alle donne dell'OMS di Cesena. Io non lo sapevo mia, e l'OMS a Cesena stava chiudendo, per dire, no? Che l'altra sera ho visto da blog che questa è una fabbrica che chiude e si trasferisce in Serbia. Ecco, allora voglio dire, qualcuno deve anche rappresentare questa gente, vuol dire, anche se non è il mio caso, però è giusto che ci sia qualcuno e parla anche di queste persone. Però io credo che ci sia un termine, normalità, che se ne stia un po' andando da questo paese. Guardiamo poi dopo magari, Claudio, chiediamo a Valeria Della Valle se c'è ancora sul vocabolario, poi dipende, no? Ci sono delle situazioni in cui anche a me piace molto che abbia un valore, un certo peso questo termine, altri qui diventa un po' relativo. Comunque 800 24 00 24, tra poco gli altri ascoltatori, ci sarà Salvatore da Padova, Domenico da Roma, però un commento a Gianni Golfera, scritto il grande libro della memoria, tecniche e segreti per ricordare tutto ciò che ci serve per quanto tempo vogliamo. Quindi almeno entro la fine della trasmissione, Gianni, ricordati le notizie di questi giorni rispetto a quello che è stato detto adesso dagli ascoltatori. Volevi fare un commento? Sì, semplicemente quello riguardo a Santoro, alla trasmissione, sì, eccetera. Io condivido quello che ha detto il nostro ascoltatore Claudio, il 90%, il 10% di dissenso è dato dal fatto che si può esprimere uno stesso concetto anche in maniera educata, ed essendo comunque una trasmissione nazionale, in un canale nazionale, quindi pagato dai contribuenti Rai, non vedo perché si debbano sempre fare offese assolutamente diseducative per chi le guarda. Questa è un po' la mia idea. Sì, forse ecco, magari Santoro, pur esprimendo il suo dissenso, la sua indignazione, la sua arrabbiatura, poteva magari evitare certi termini e forse non avrebbe neanche prestato il fianco. Però opinionista estemporaneo di oggi è l'uomo, il mnemonista più grande al mondo, che è Gianni Golfera, che ha pubblicato fra i vari libri, l'ultimo è questo, il grande libro della memoria. Ma stavo pensando, ho visto adesso un aggiornamento sul caso di Sara Scazzi, da una parte quasi non avevo voglia di leggervelo, perché devo dire che prima che ci fosse questo ultimo sviluppo di ieri sera mi ha un po' infastidito e anche un po' amareggiato, no? Il fatto che noi giornalisti in genere, devo dire, se mi permettete, Radio 24 un po' fuori da questa cosa, però questo voler sempre da parte dei media coltivare con cura, no, questi fatti criminali, e volerseli tenere lì un po' come per il maiale, non si butta nulla e si prende il pezzettino e si prende quest'altro, quest'altro, insomma si va avanti, si fanno tante di quelle puntate, soprattutto di certi talk show, no, ci si crogiola, si ha la bacchetta per indicare il plastico, le cose, si è detto tante volte, anche in programmi che nulla avrebbero a che fare in realtà con questi fatti così tragici e delicati, e diventa proprio uno svilupparlo in modo seriale. A volte si recuperano persino per associazione dei fatti del passato e così poi si possono anche quelli riutilizzare, sfruttare per chissà quali altre, quante altre puntate. Insomma, una spirale infinita e noi un po' tutti forse a sconvolgerci, a commuoverci, anche un po' a compiacerci di fronte a queste cose. Però visto che è fresco fresco l'aggiornamento, è di ieri, diciamo, c'è stata una novità inaspettata almeno per i comuni mortali, forse qualcuno già dice col senno di poi l'avevo detto, io avevo capito che... Insomma, a proposito di Sabrina, la cugina di Sara Scazzi, che sapete negli ultimi sviluppi di questa inchiesta ieri sera è stata bloccata, è stata in stato di fermo perché sarebbe coinvolta nel sequestro di Sara e anche nell'omicidio, purtroppo. Bene, c'è il suo avvocato, una notizia di pochi istanti fa, Vito Russo, che dice che è andato a trovarla in galera nel carcere di Taranto. Sabrina è distrutta, amareggiata, in preda a uno shock, si sente accusata ingiustamente dal padre e piange sempre. Ritorniamo sulle vostre notizie, che non so se siano relative a questo o altro. Domenico da Roma. Sì, buonasera. Ciao Domenico. Sì, salve. Io intanto la volevo ringraziare di questa possibilità, perché io credo di fare questa analisi, vista la sua analisi molto, molto attenta sui media, e concordo, qui c'è un discorso che non è stato mai affrontato, vista l'esperienza. Se vuole, io ho 49 anni, non è che ho... Voglio, non voglio, mi sa che ce l'hai lo stesso. Sì, appunto. No? Però sa, lei consideri una cosa, no? Io di queste situazioni magari nei piccoli paesi ne ho viste abbastanza. Allora io le dico una cosa, la signora Concetta, che è la mamma di... Sara. Era la mamma della povera Sara. Lei mi deve spiegare sinceramente che ruolo ha gestito questa signora. Cioè non si è assolutamente... diciamo scoperta. Allora la signora Concetta mi deve spiegare a me, essere umano, che cosa ha fatto mai con lo zio? No, Domenico, adesso scusa, mi dici che faccio un'analisi abbastanza lucida di come si comportano i media e poi noi gente comune mortale facciamo anche di peggio e ci mettiamo magari a fare delle ipotesi. Guarda Domenico, ti pregherei, visto che quella povera donna subisce stravolgimenti di minuto in minuto, la lasciamo stare, Domenico, che dici? No, ma io volevo dire una cosa, non è, io ho detto che cosa avrà mai confabulato con questo zio, visto che la figlia, cioè la figlia Sabri, come si Sara. Chiamava? Sara. No, Sara, l'altra. Quella è la nipote, Sabrina. Sì. La cugina Sabrina aveva molta confidenza con il padre, no? Allora lei mi deve dire che lì si erano creati due partiti ben disposti, cioè la mamma era al corrente di tutto. No Domenico, adesso stiamo facendo della fantacriminalità, insomma, della fantainvestigazione. Direi, scusami Domenico, di lasciar stare. Michele da Roma. Sì. Eccoci Michele, sono qua. Guardi, io volevo parlare su Santoro. Sì. Guardi, le volevo dire, a parte il fatto che Santoro non rispetta il contraddittorio, bene, ma non si possono stravolgere le regole elementari, cioè dire lui è un dipendente di un'azienda, non è che sia un dipendente speciale. Se non rispetta le regole minime che si devono rispettare in qualsiasi azienda, cioè dire si permette il lusso di mandare a quel paese con termini volgari il proprio capo, ma secondo me doveva essere licenziato, non in questa maniera. Poi le volevo fare un'altra osservazione. Faccia. Veda, e giudicare le trasmissioni rapportandole al numero di ascolto è un errore, perché ad esempio io me lo vedo sempre Santoro, ma come me migliaia di persone, ma lo vedo per indignarvi. voglio vedere fino a che grado arrivi la mia indignazione. È una cosa che funziona questa, a volte di ascoltare o vedere trasmissioni perché indigna, non lo so, è una cosa che funziona bene, anche strategia questa, Michele. Però insomma, poi come diceva l'altro ascoltatore Claudio, forse si è liberi comunque di girare, no? Poi l'indignazione è anche ipnotica a volte, Michele. No, lui pensa di essere un dipendente speciale. Legge bussolutus, non rispetto di contraddittorio, niente, manda a quel paese il proprio capo. Michele, però continuerà a indignarti, mi sa, mi sa. Sì, lo so, ma si spate questa leggenda, che il numero, le voglio fare un esempio. Facciamo, sì. Fellini 8 e mezzo, quel grande film che è stato un'opera d'arte, sì, è stata vista da pochi, poche persone, poche migliaia, ma ciò non toglie che era un'opera d'arte. Michele, su questo posso essere quindi, d'accordo effettivamente, che non sempre gli ascolti fanno la qualità del programma, su questo siamo, però siccome poi si ragiona sulla pubblicità, sugli investimenti pubblicitari, su quanti soldi di ritorno arrivano, sai Michele, questa poi appunto è la logica, che piaccia o no. Santoro, vi volevo, prima di sentire Salvatore che ha una gran pazienza anche lui da molto che sta attendendo, ve lo ricordo, il numero verde è 800 24 00 24, per fare i vostri commenti liberi sui fatti della settimana, numero verde quindi gratuito 800 24 00 24. Volevo dirvi anche a Gianni Golfera, siccome sapete che mi piace un po' saltare di palla in frasco ogni tanto perché le notizie sono tante, e il giudizio sullo stato di salute del pianeta di questa settimana, in questo piano elaborato dal WWF, è il seguente: che se il nostro pianeta dove viviamo va avanti ad essere sfruttato così come lo sfruttiamo e come lo maltrattiamo, tra 20 anni, cioè nel 2030, sarà necessario un secondo pianeta, una seconda Terra. Noi dove la troviamo? Non pensate di venire su Marte, perché lì non c'è possibilità. Però quello che mi stupisce è che nella classifica degli stati mangia risorse, nella classifica dei primi 30, secondo voi al primo posto chi c'è? Secondo te, per esempio, Gianni Golfera, al primo posto chi c'è degli stati del mondo che consumano più risorse? Potrebbero esserci gli Stati Uniti d'America. Risposta scontata, anch'io avrei detto Stati Uniti, invece no, pensa, vi dico i primi tre: Emirati Arabi, il primo, Qatar, il secondo, Danimarca, il terzo, che sono dei piccoli stati, staterelli, al di là poi del petrolio, degli Emirati Arabi, Qatar, eccetera, eccetera. Però chi avrebbe immaginato, no? Uno si immagina gli Stati Uniti, ovviamente, subito, no? Emirati Arabi, Qatar, Danimarca, gli Stati Uniti sono al quinto posto, perché sono persin superati al quarto dal Belgio. L'Italia, ovviamente, ci interessa, è al 29° posto, non è che possiamo dirci virtuosi, però insomma, rispetto ad altri paesi. E poi pensate che subito dopo gli Stati Uniti, al 6° posto, che paese c'è secondo voi? Che paese c'è secondo te, Gianni Golfera? Mi auguro non l'Italia questa volta. No, era al 29° posto. Invece al 6° posto, tu pensa, un paesello, un piccolo che ha cominciato, abbiamo cominciato almeno a livello di massa a parlarne da pochissimo, l'Estonia, che è piccolo, piccolo, piccolo, piccolo. Insomma, queste cose sono interessanti anche da sapere perché stupiscono. Ma andiamo a Salvatore da Padova, che ringrazio per la gran pazienza. Salvatore. Buongiorno. Buongiorno, sì. Salvatore. Allora, io intanto volevo parlare... Salvatore, perdonami, ti chiedo ancora un po' di pazienza di spegnere, di annullare totalmente la radio, perché mi risento, mi sembra la radio. Un po' allo specchio. Adesso va meglio? Sì, meglio, meglio. Sì. Sì. Allora, dicevo, una notizia che mi ha molto colpito, in qualche modo una notizia che io trovo sconsolante, è stata la querelle che si è avuta questa settimana tra il presidente della Camera e quello del Senato a proposito di dove debba iniziare la discussione sulla riforma elettorale. Sulla riforma della legge elettorale, sì. Sì, sulla riforma della legge elettorale, che aspetterebbe, diciamo così, tra virgolette, iniziare in Senato e poi dovrebbe andare in Camera. Mm. Ma la cosa che mi sconsola è vedere il fatto che in Italia, purtroppo, c'è una deriva verso il basso, il paese si sta avviando al declino e queste diciamo, io dico questo perché nessuno ha proposto qualcosa che sarebbe molto utile dal punto di vista della rappresentatività, né la maggioranza né tantomeno l'opposizione. Diccelo tu, Salvatore. Sì, sì, pronto? Sì, sono qua. Dicevo che queste persone attualmente al governo e in Parlamento, anziché proporre, non dico una diminuzione del numero dei parlamentari, ma un raddoppio o una triplicazione di questo numero, associando questo raddoppio e questa triplicazione a uno sganciamento degli stipendi da quello attuale agli alti magistrati, sganciare gli stipendi dall'alta magistratura e agganciarla alle pensioni sociali. Non si capisce perché un vecchietto che ha lavorato magari tutta la vita e vive di pensione sociale, per il vecchietto sia dignitoso e sia utile, mentre sia non dignitoso che un parlamentare svolga le sue funzioni con la stessa cifra di un pensionato sociale. Io questa cosa sinceramente la trovo indegna, va bene dal punto di vista morale, non sto parlando al punto. Quindi queste persone invece appunto di allargare la base di rappresentatività e quindi di allargare il numero dei rappresentanti in Parlamento in modo da rendere il Parlamento non controllabile, perché ma come li vogliamo ridurre, Salvatore? Ma come si vogliono ridurre e tu li vuoi aumentare i parlamentari? Sì, ma non aumentarli di poco, aumentarli di molto. Io vedo negli altri paesi, faccio un esempio, gli Stati Uniti. Negli Stati Uniti ci sono molti, ma molti più politici che non in Italia. Non mi si venga a dire che il Senato americano è più piccolo, il Congresso americano è più piccolo, perché là hanno anche un Senato e un Congresso ogni Stato. Là hanno rappresentati ogni contea. Là votano se devono decidere se spostare le strisce pedonali da un posto all'altro. Ma non credo che noi saremmo preparati a questo, e siccome poi gli stipendi non diminuirebbero, penso che sarebbe veramente una sciagura aumentare addirittura ancora ulteriormente i parlamentari. Proseguiamo allora nel commentare i fatti della settimana. Vi dicevo dall'inizio, insomma, questa settimana è stata veramente sopraffatta dalla cronaca nera, anche se continuano a essere in primo piano naturalmente altre notizie, come abbiamo sentito anche da voi ascoltatrici e ascoltatori. 800 24 00 24, mio opinionista estemporaneo di oggi sempre Gianni Golfera, mnemonista, ha scritto il grande libro della memoria, tecniche e segreti per ricordare tutto ciò che ci serve per quanto tempo vogliamo. Gianni, cosa invece di questa questione del consumo delle risorse terrene, del fatto che tra 20 anni serviranno 2 terre, tu su quale pensi di voler stare poi tra questi 2 pianeti? Ma io, a dire la verità, preferirei stare su questa e cercare di non arrivare a questo punto. Mi viene in mente la triste storia dell'isola di Pasqua, dove hanno tagliato tutti gli alberi fino a quando non ci sono state più risorse e sono tutti finiti miseramente senza avere nemmeno la barca per andarsene. Spero che non faremo la stessa fine. Giovanni, dalla provincia di Pisa. Sì, buon pomeriggio a tutti. Ma io ho sentito poco prima uno che è intervenuto che si indignava. Giovanni, sì? mi perdoni perché mi dicono che c'è un altro Giovanni da Los Angeles, quindi sei proprio un minuto di pazienza, guarda. Che musica sublime però, devo dire. È quasi, quasi come fosse presente qui, invece a Los Angeles, lontanissimo, un po' la giornata del filo Stati Uniti, come Gianni Golfera, che è lì, e il nostro Giovanni Allevi. Giovanni! Buongiorno! Buongiorno Giovanni! Buona alba a te! No, qui è ancora notte fonda! Senti, scusa Giovanni, vuoi startene un po' in Italia adesso da quando si è montato un po' la testa? Già è Ricci parecchio, con uno spessore sopra, e in più... Giovanni, sei sempre altrove, com'è che non sei qui da queste parti? Che devo fare, insomma, la musica mi porta a vivere la vita come una trottola. Senti, prima dicevo... Il cuore con da voi. Sei in tournée, sei in tournée come la capsula Phoenix, quella che ha salvato i minatori in Cile. Sai che adesso la portano in una tournée mondiale, se la vuoi vedere questa capsula. Ah, ecco, Phoenix. Allora siamo in due. Siete in due, non so che capelli abbia la capsula, ma comunque... Senti Giovanni, come sei lì in tournée, che cosa stai facendo a Los Angeles, non per sapere i fatti tuoi? Dunque, domani c'è la prima esecuzione nel mio album Alien. Per pianoforte solo, quindi c'è un teatro, l'Air Ray Theater, che mi aspetta con il pianoforte, sono emozionatissimo. non dormo la notte, quindi ne approfitto di questo momento di insonnia per essere con voi. E adesso Giovanni fa il modesto, ma ormai è abituato veramente in tutti i grandi spazi adibiti alla grande musica del mondo, insomma, no? Tu sei stato dal Blue Note di New York a tutti i templi della musica mondiale, quindi adesso non facciamo quello che non dorme, per carità, forse perché hai digerito male magari, Giovanni, no? No, ma veramente, cioè non ci si abitua mai, questo è il fatto, però è bello anche così, insomma, di vivere queste emozioni il più intensamente possibile. Giovanni, ma il vero scoop non è che Giovanni Allevi continua a essere in tournée mondiale dappertutto e che adesso è a Los Angeles, ma chi sarà qui con me, non spero fisicamente, ma comunque come opinionista estemporaneo, Giovanni, No, spero anche io fisicamente. Fisicamente, mi devi portare anche il pianoforte, perché così tra una notizia e l'altra tu mi fai tutta una, no? Serenata, una melodia, una cosa. Giusto? Ti prendo in parola, Giovanni. Prima voglio vedere che combino domani, poi con più leggerezza, insomma, affronterò tutto il resto, però da te. Incrociamo le dita. Avevi voglia di citare una notizia della settimana o sei troppo preso dalla musica da Los Angeles in questi giorni? Lo facciamo prossimamente. Ma magari la prossima volta, adesso mi sento un po' alieno, soprattutto gli eventi. Preso da altro e dall'altra parte del mondo. Grazie Giovanni Allevi, ti aspetto, mi raccomando, poi fammi sapere la data precisa. Ciao Giovanni. Grazie a voi, un abbraccio affettuoso, ciao. Giovanni invece della provincia di Pisa, perdonami, ma mi ha detto c'è un collegamento qui, non possiamo stare 3 ore con Los Angeles, giustamente. Non c'è nessun problema. Grazie. Dicevo, io ho sentito qualcuno che si indignava per Santoro, io telefono dalla terra degli indignati speciali, come Michelangelo, come Dante, Godi, Fiorenza, perché sei sì grande che per mare e per terra va a tirare e per l'inferno tuo nome si espande. Senti i nomi. Diceva il sommo poeta. Ma io mi indigno perché... veramente ci dobbiamo indignare tutti, siamo in mano a delle persone che ci governano, che collezionano mandati di comparizione, che collezionano pene per cui non possono essere perseguibili perché vengono prescritte. In Parlamento ci sono persone che sono condannate in primo, secondo, terzo grado. Io mi indigno perché con 800 euro in mese di pensione non ce la faccio a tirare avanti, mentre qualcuno prende per liquidazione 400 anni della mia pensione, 80 miliardi di vecchie lire. Io mi indigno perché comprano gli 8 di 80 metri e pagano il gasolio la metà di quello che lo pago io. Io mi indigno perché le banche mi stanno rubando, perché l'assicurazione non ce l'ha. Questo dobbiamo indignarci, ma non per Santoro. Indigniamoci veramente, ne abbiamo diritto, ma indigniamoci. Non per Santoro, ma che ci incazza Santoro? È il mondo in cui viviamo che ci dovrebbe fare indignare, è finito, non abbiamo più dignità purtroppo. Se ci indigniamo per Santoro vuol dire che non abbiamo più dignità. Scusi. No, Giovanni, ti ascoltavo molto, molto interessata, coinvolta da questa tua passionalità anche condivisibile. Ti ringrazio, Giovanni. Io ho 2 figli che non si sa che fine faranno, diritti che vengono calpestati, il capitale che ci sta massacrando, che ci stanno. Ma come si fa? Queste sono le cose che dobbiamo indignarci, ma non per Santoro, per tante cose. Grazie Giovanni. Adesso lasciamo per qualche istante da parte l'indignazione, perché un ospite, sapete, cui sono molto affezionata, vogliamo anche introdurla. Sì. La nostra Valeria Della Valle, la mia linguista preferita della Sapienza di Roma. Valeria carissima. Sì, eccomi qua di corsa. Senti, a proposito di indignazione, no? Ci si indigna sia a livello personale di cittadini, sia a livello di politici per la riforma, le riforme, slittata nuovamente la riforma dell'università, e sì, si continua a dire ci vogliono riforme in questo paese. Poi, per il momento mi pare che non siano pervenute. Ma insomma, la parola riforma sì, ci circonda da tutte le parti e in questi giorni in particolare ci tiene in ansia, e mi tiene in ansia quella dell'università, non tanto per me che sono, diciamo, in via d'uscita, ma per tutti i giovani che dovrebbero entrare. Allora, occupiamoci, forse è meglio occuparci della parola. Naturalmente sì, una volta di più dobbiamo risalire al latino reformare, ma la parola riforma poi si è diffusa in ambiti diversi, con significati un po' diversi. Intanto la parola italiana risale al Cinquecento per indicare appunto una modifica di un ordinamento giuridico o di una legge, però c'è un altro significato che nella nostra lingua ha avuto una grandissima notorietà, il significato religioso, perché è stata chiamata riforma proprio il movimento religioso nato dalla predicazione di Martin Lutero nel 1517. Ma poi ci sono, per fortuna, ecco, devo dire, per fortuna ci sono anche significati che in un certo senso sono usciti dell'uso, che rimarranno solo come memoria. Pensiamo per esempio a riforma nel senso di congedo assoluto dal servizio militare. Essere riformato. Ecco, per fortuna i riformati non ci sono più, perché non c'è più il servizio militare obbligatorio. Ecco quindi che una stessa parola ha tanti valori e significati, e alcuni addirittura possono tramontare. Beh, invece quella dalla quale siamo partiti, cioè la riforma universitaria, quando sarà varata, ecco, di questa riforma si continuerà a parlare molto, continuerà, credo, a essere ricordata a lungo nel futuro. E per quale motivo? Ma per le conseguenze che avrà, e quelle conseguenze dureranno purtroppo a lungo nel tempo. Grazie Valeria Della Valle. Valeria, grazie, diciamo, a voi. Diciamo che c'è un po' il dente avvelenato sulla questione, poi vedremo quando mai sarà varata questa riforma e quali saranno gli aspetti positivi e negativi e in complesso le conseguenze. Mentre Gianni Golfera, mio opinionista estemporaneo di oggi, pensa a una conclusione, prima di salutarci ho tempo ancora per un ascoltatore. 800 24 00 24, Massimo da Roma. Sì, prego, posso parlare? Puoi parlare, Massimo. Ok, nella facoltà, dico, solo Massimo. Dico solo una cosa. Prego. Ho 51 anni, ho visto gli anni della contestazione, l'ho fatta tutta, dico, viviamo un po' anni ipocriti, perché secondo me anni fa se noi mandavamo a fare un corso per ora non succedeva niente. Pure Grande Albertone ha fatto una canzone. Massimo, parla più chiaramente, un po' più lentamente. Ho detto, ho 51 anni. 51 anni, questo è chiaro. Gli anni della contestazione e mi sono fatti tutti, quindi sì. Praticamente diciamo anni come ci scandalizziamo per troppe cose. Voglio dire, mandare a fanculo qualcuno, un capo, se lo merita, forse fa pure bene, perché anche il grande Albertone ci ha fatto anche una bella canzone. Voglio sì, dire, ti hanno mai mandato a quel paese, in realtà, insomma, era un po' più moderato. Dirigente non è che sia granché. Massimo, okay, devo dirti che effettivamente uno molto spesso lo pensa, però qualche volta bisogna trattenersi, ecco, no? Nelle reazioni. In ogni caso direi di dare a Gianni Golfera parola in questi pochi istanti che ci rimangono, Gianni, per fare una tua conclusione, tu che hai scritto il grande libro della memoria, ecco. Sì, faccio una conclusione che sarà poi argomento di riflessione, una cosa che fa molto riflettere. Sì. E mi chiedo, non è che a dare tutto questo spazio, come dicevi, alle notizie riguardo la violenza, le uccisioni, eccetera, non si corre il rischio di una certa forma di emulazione? Sarebbe da chiedersi se sia... Questo vecchio dibattito, caro Gianni, forse anche il fatto di prevedere che ci saranno dei disordini in una manifestazione che per ora mi sembra che stia andando per il meglio, cautamente, anche lì bisognerebbe, no, cercare. Comunque, insomma, vecchio dibattito di cui si tornerà a parlare innumerevoli volte. Grazie a Gianni Golfera, ricordati di me, ricordati di noi, cosa dire, a Gianni Golfera, e vi ricordo voi il grande libro della memoria. Intanto, fino a sabato prossimo, da Roberta Giordano, sereni orizzonti a tutti.